English Bit di Giulia Crivelli. Break up. Poles apart. China, America and the planet's biggest breakup. Qualche settimana fa, subito prima che scoppiasse la crisi legata all'epidemia da coronavirus, il settimanale britannico Economist dedicò la copertina alle due superpotenze della nostra contemporaneità. Poli separati. Cina, Stati Uniti e il più grande divorzio del pianeta. La parola che ci interessa è break up, sostantivo che è però uguale al verbo to break up, phrasal verb irregolare, to break up, broke up, broken up. Oltre che divorzio, che si può tradurre con divorce, break up significa più in generale separazione tra persone, aziende, paesi. Their marriage has broken up. Il loro matrimonio è finito. Il verbo è molto versatile in realtà. The ship broke up on the rocks. La nave si incagliò sugli scogli. The meeting broke up at 11 o'clock. La riunione finì alle 11. When do you break up for Christmas? Quando iniziano le tue vacanze di Natale? The thought of hurting her just breaks me up. L'idea di farle del male mi distrugge. Police were called to break up the fight. La polizia fu chiamata per porre fine alla lite. She's just broken up with her boyfriend. Si è appena lasciata con il suo fidanzato. To break dà origine a molti altri verbi. To break away significa andare via, in senso letterale o figurato. The prisoner broke away from his guards. Il prigioniero riuscì a sfuggire alle guardie. Some of the members broke away from their party to form a new one. Alcuni membri del partito se ne andarono per formare un nuovo partito. To break down vuol dire rompersi. The car broke down on the freeway. La macchina ebbe un guasto in autostrada. In senso figurato, he broke down and wept when he heard the sad news. Crollò e iniziò a piangere quando sentì quelle tristi notizie. To break for significa cercare di guadagnare l'uscita. She had to hold him back as he tried to break for the door. Dovette trattenerlo con la forza perché avrebbe voluto uscire dalla porta. To break in significa entrare in casa di qualcuno per rubare. Burglars had broken in while we were on vacation. I ladri entrarono in casa mentre eravamo in vacanza. To break into può essere tradotto con sfociare, trasformarsi. As the president's car drew up, the crowd broke into loud applause. Quando la macchina del presidente si avvicinò, la folla scoppiò in un forte applauso. To break through, che è anche sostantivo, significa fare una scoperta. Scientists think they are beginning to break through in the fight against cancer. I ricercatori sono convinti di avvicinarsi a scoperte importanti nella lotta ai tumori. Gli assistenti vocali sono macchine pensate per facilitare la vita. Noi di Amissima Assicurazioni invece crediamo nei valori e nelle persone. Io sono Giulia, agente Amissima. Il mio compito è esserti vicina sempre per consigliarti la soluzione migliore, perché noi di Amissima Assicurazioni siamo persone che assicurano persone. Scopri di più su amissima.it. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Dirigenti scorretti? Axerta. Dal 1963, investigazioni a tutela di aziende e istituzioni. 800 800 007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Buongiorno. Buongiorno. Questa Mini ha il Comfort Access come optional? No. E i sensori di parcheggio posteriori? No. E il Mini Connected Media? Nada. Almeno il climatizzatore? Quello bizona automatico? Sì. No. Il Comfort Access? L'ha già chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini su mini.it. Per migliorare la tua infrastruttura IT progettiamo insieme la soluzione Cloud Enterprise perfetta per le tue esigenze. Perché con Aruba Enterprise il cloud è a forma d'impresa. Scopri le soluzioni IT di Aruba Enterprise.

indicatori, però l'importante è avere una linea internet. Quanto vi ha aiutato questa app che avete inventato? Tantissimo, il tempo materiale che tu hai risparmiato, nel senso che non devi essere per forza lì nel luogo fisico, ma anche se sei a Milano, a Roma, o puoi avviare direttamente gli indicatori. Poi abbiamo applicato anche una telecamera che possiamo vedere pure direttamente, cioè l'allevamento, pure se gli indicatori partono, o per la vegetazione. L'allevamento di lumache, poi vengono fatti dei sfalci e tu con la telecamera ci vai molto selettivo. Nicola ogni 18 mesi da solo e grazie all'aiuto della sua app produce 3 tonnellate di lumache usate sia per la gastronomia sia per produrre creme cosmetiche. Tecnologia, informatica e telecomunicazioni aiutano così la produzione e consentono di gestire meglio le risorse. Ma, avverte Veronica Barbati, presidente Giovani Coldiretti, c'è un problema infrastrutturale da risolvere per avere un'agricoltura 4.0 di precisione più diffusa sul territorio. Se poter far sì che queste piattaforme di carattere molto spesso informatico, basate su analisi dei dati e quant'altro, possano essere messe in piedi in queste aree, è necessario assolutamente un investimento di supporto in termini infrastrutturali, altrimenti tutto questo non si potrà purtroppo, ahimè, mai realizzare o comunque molto difficilmente realizzare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Strade in diretta. Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura andiamo sulla 1, la Milano-Napoli. Rallentamenti per un incidente tra lo svincolo di Chiusi e quello di Fabbro in direzione di Napoli. Sempre sulla 1 per lavori a seguito di un incidente, lo svincolo di Fiorenzuola resta chiuso in uscita in direzione di Napoli. Code per un cantiere invece in Liguria sulla 10, la Genova 20 miglia, disagi tra Varazze e Celle Ligure in direzione 20 miglia. 3 km di coda sempre per lavori anche sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Infine in centro Italia sulla statale 3 bis la Tiberina, code per un incidente tra Ponte San Giovanni e Foligno in direzione di Assisi. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Augusto Ungarelli e Vendorafa, la tradizione dei maestri orafi dal 1951, di Carmen Lagatta. Oggi vi parliamo di Vendorafa, un'azienda che da oltre 60 anni realizza gioielli made in Italy con la tradizione dei maestri orafi. Nel 1951 i fondatori, Mario Lombardi e suo fratello Renzo, da cui prende il nome l'azienda, decidono di impiegare tutta la propria creatività e manualità nel creare un piccolo distretto della gioielleria italiana di provincia. La storia viene raccontata dall'amministratore delegato Augusto Ungarelli. La Lombardi Mario Fratello nasce nel 1951 per volere di due fratelli artigiani valenzani che creano nel distretto della produzione della gioielleria italiana di Valenza. Fondano questa piccola azienda artigiana utilizzando le loro capacità manuali, creative. E l'azienda è una piccola azienda che nella sua prima fase di vita produce prevalentemente per il mercato domestico, per il mercato italiano. La Lombardi Mario e Fratello è un'azienda a carattere familiare. Inizialmente si produce solo per il mercato italiano, ma la vera svolta avviene dagli inizi degli anni 70, quando si aprono i mercati dell'export. Il vero cambiamento avvenne proprio nel momento in cui l'export divenne proprio uno degli mercati di sbocco, e in particolare quello statunitense, verso il quale, al di là del riconoscimento delle qualità creative e qualitative dei gioielli che venivano dalla Lombardi Mario Fratello, il mercato americano aveva ovviamente il grande vantaggio di poter disporre di una valuta, il dollaro, nei confronti della lira italiana, con alto potere d'acquisto. Quindi quel mercato divenne effettivamente uno dei punti di grande attenzione dello sviluppo dell'azienda, e questo creò in qualche maniera le condizioni perché l'azienda fosse strutturata. Quindi da un piccolo laboratorio, sempre di carattere strettamente familiare, si passò sempre ad un'azienda a carattere familiare, ma più organizzata, con più dipendenti, e si arrivò fino ad avere all'interno di questa azienda una ventina di dipendenti che in qualche maniera riuscivano a soddisfare pienamente tutte quelle che erano le richieste del mercato in quel momento. Grazie all'esportazione in tutto il mondo, la Lombardi Mario e fratello riesce ad ampliarsi. Ma questo richiede anche nuove figure che sappiano parlare diverse lingue e gestire la vendita all'estero, riuscendo a coordinare le esigenze dei singoli mercati. Significativo e molto caratteristico ciò che avvenne la prima volta che in Mario Lombardi e fratello si parlò di export. Il fondatore, che è mio suocero, il quale era un ottimo artigiano di grandi capacità e di grande comunicatività, però non parlava una lingua eccetto l'italiano. E quindi la prima volta che lui si misurò con l'export, prese un aereo, aveva due valigie con dei gioielli, valigie contenitori, come venivano chiamate a Valenza, no? e andò negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ebbe la fortuna e la capacità di farsi capire e riuscì dopo una settimana a riprendere l'aereo anche senza i contenitori della gioielleria. Questo significò un cambiamento radicale, perché si pensò che non si potesse continuare a avere tutte queste attrattività solo perché eri lì. E quindi la struttura passò e si fondò negli anni 70, fu fondato un ufficio commerciale, una società che ebbe il nome di Vendorafa, il nome la dice lunga, Vendorafa, Vendo Produzione Orafa, e che era in quel momento una sorta di innovazione proprio da un punto di vista distributivo, perché questo raccoglieva il meglio di quelle che erano le produzioni artigiane di Valenza, che non avevano tutte quelle capacità, e l'export a Valenza cambiò la fisionomia anche di questo distretto. Negli anni 70 nasce Vendorafa, un consorzio di 6 aziende del settore orafo che lavorano prodotti diversi. Cambia l'organizzazione dell'azienda stessa da un punto di vista strutturale. Un cambiamento non solo mentale ma anche di forma, che è partito da un progetto ambizioso di Mario Lombardi, da cui poi nasce la fabbrica, come racconta ancora l'attuale amministratore delegato Augusto Ungarelli. La visione del fondatore, di mio socio, di Mario Lombardi, era quella di creare la fabbrica organizzata, e in quel momento Valenza era un distretto, era una cittadina di provincia in cui le famiglie lavoravano in casa, avevano il laboratorio nel sottoscala, vivevano intensamente la propria realtà artigiana, andavano a dormire la sera salendo le scale, la mattina dopo andavano al posto di lavoro al piano terra o nel sottoscala. Questo sottoscala di Valenza aveva un grandissimo valore di capacità creativa, di manualità, di stile, di sensibilità e di produzione. Mario Lombardi pensò che fosse il momento di dare una struttura. A Valenza c'erano piccoli laboratori. Il numero medio degli addetti per azienda non superava le 4 unità, quindi c'erano una molteplicità, tantissime piccole imprese artigiane, ma piccole. E quindi tutte queste lavoravano con grandi capacità, ma ci voleva qualcuno che mettesse insieme queste cose. Allora lui decide di fare una fabbrica organizzata. E pensò che per fare una fabbrica organizzata ci volevano gli operai, ci volevano le competenze, ma ci voleva lo spazio, ci voleva il fisico, il luogo. E allora, siccome era un visionario, disse che sarebbe stato opportuno trovare un architetto. E l'architetto Cardella disegnò e progettò una fabbrica. Una fabbrica in cui le indicazioni erano: guarda che io li voglio vedere tutti gli operai. Perché se io vedo gli operai vedono me, c'è un dialogo. Si instaura quel dialogo che è il rapporto artigiano, il vero valore del rapporto artigiano, cioè l'input del lavoro, il bisogno di chiedere consiglio a chi ne sa, al capo, al maestro orafo, e la possibilità di guardarsi, non per controllarsi, ma per avere una visione completa di tutto il ciclo della produzione. Questo fu il momento in cui ci fu il vero cambiamento della struttura artigiana, perché questa struttura divenne una società. Un momento di difficoltà si ha nel 1990, quando 4 delle 6 aziende di Vendorafa decidono di staccarsi dal consorzio. Lombardi fa fronte a liquidazioni importanti e decide di investire per rilevare tutte le quote societarie. Questo causa un problema gestionale. È impossibile crescere e viene limitata la brandizzazione dei prodotti. Nel frattempo arriva la seconda generazione della famiglia a portare avanti l'azienda. Tutto è affidato alla figlia di Mario Lombardi e a suo marito Augusto. Per una mentalità artigiana, per una mentalità ancora molto provinciale, insomma, mostrarsi e misurarsi con il resto del mondo provocò questo inciampo che creò una fortissima difficoltà esistenziale alla struttura di produzione. Grande cambiamento nella famiglia, perché la famiglia decise che a quel punto arrivò la seconda generazione, che siamo noi, con mia moglie. Io e mia moglie siamo architetti, ci siamo conosciuti all'università a Firenze e accettammo questa sfida, rientrammo in gioco in questo momento difficile, in un momento traumatico, devo dire. Prendemmo parte a questa nuova avventura con limiti, con entusiasmo sicuramente, ma anche con timore, con paura in certi momenti, perché gli eventi erano eventi abbastanza difficili. E questo fece sì e dette modo di cambiare radicalmente la nostra vita aziendale. L'azienda, noi vedemmo che l'azienda aveva un grande potenziale, perché era creativa, aveva delle manualità fantastiche, dei maestri artigiani all'interno, una visione creativa e produttiva che era continua. Noi continuavamo a produrre modelli nuovi, a essere appetibili, ricercati sui vari mercati, dal Giappone agli Stati Uniti. Dall'altra parte c'era l'aspetto finanziario, che era un disastro sul quale dovevamo compensare, no? Che avvenne veramente quella che è stata la seconda parte della vicenda, che è anche quella attuale. Vendorafa oggi fattura più di 20 milioni di euro e dà lavoro a 90 persone. Dalla Lombardi Mario e fratello sono cambiati i tempi e i sistemi di produzione, ma il cuore è sempre lo stesso. Noi abbiamo un'azienda che a oggi è praticamente un'azienda a ciclo completo, artigiana, con le stesse caratteristiche che abbiamo, organizzata, in cui si fa il disegno, in cui si fa lo sviluppo del prodotto, in cui si usano le nuove tecnologie attraverso i supporti informatici, abbiamo le macchine che ci aiutano, i laser che hanno cambiato tantissimo la storia, ma noi quello che teniamo e che vogliamo con grande vigore è il fatto di mantenere la tradizione artigiana. E abbiamo fatto una fondazione, questa fondazione si chiama Mani Intelligenti, perché vogliamo recuperare, mantenere, sviluppare la tradizione artigiana. E la tradizione artigiana la si fa con le mani, con il cuore, ma anche con la testa. E questa intelligenza che noi vogliamo cercare di mantenere, di trasferire anche alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni non è che siano distanti dalla gioielleria, da ciò che è bello, forse hanno bisogno di essere educati, ma educare significa proprio condurre, riuscire a darle gli elementi per poter valutare quello che è il lavoro. Non possiamo assolutamente dimenticare, e dobbiamo averlo sempre come quello straordinario valore della nostra identità, la capacità artigiana di stile, creativa e di manifattura che la nostra tradizione artigiana porta in giro per il mondo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.